Buonasera, Nave, herzlich willkommen, benvenuti. Questa è una nuova iniziativa della biblioteca. Come vedete, abbiamo al nostro tavolo qui stasera per la presentazione del saggio Il fiume, le terre e l'immaginario, che ha per centro di interesse l'Adige, il fiume Adige, il nostro fiume. Abbiamo con noi il professor Hans Heitz dell'Università di Innsbruck, ma che conosciamo anche per la sua preziosa attività presso l'archivio provinciale di Bolzano. Abbiamo con noi anche il curatore di questo libro, che è Vito Rovigo, professore nella Scuola Superiore a Trento e membro dell'Accademia degli Agiati. Si occupa della parte relativa agli studi storici nell'ambito trentino e anche altoatesino. Infine abbiamo con noi il professor Andrea Bonoldi, che fa parte del nostro comitato scientifico da quest'anno e che insegna all'Università di Trento, in particolar modo alla Facoltà di Economia, Storia dell'Economia. Abbiamo, come potete vedere, degli illustri ospiti che ci accompagneranno in questa serata, ci faranno conoscere il fiume Adige da un altro punto di vista, da un punto di vista storico e scientifico. Ci siamo lasciati appunto recentemente parlando sempre di fiumi, ma da un altro punto di vista, come per noi spesso siamo abituati anche a considerarli, questi nostri corsi d'acqua, come qualcosa da governare, da controllare, ma nel tempo, nel passato, sono stati sicuramente una ricchezza, hanno avuto un ruolo che oggi è cambiato, ecco, sono sempre importantissimi, ma sotto altri punti di vista, anche intesi economicamente. Approfitto sempre di questa piccola finestra preziosissima quando introduco l'iniziativa per segnalare quello che accadrà nei prossimi giorni e quello che fa la biblioteca. Ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 facciamo un corso gratuito di BiblioWeb. Chi è interessato può chiamare e prenotarsi gratuitamente per seguire questo corso. BiblioWeb è una piattaforma che mette a disposizione dei cittadini l'utilizzo di giornali digitali quotidiani in 50 più lingue. Sono 1900 i titoli, compresi ebook, da prendere in prestito. La prossima settimana ci ritroveremo qui il lunedì e il giovedì in questa sala, sempre alle ore 18. Il prossimo lunedì sarà la volta di Bocciolo, poesie in stile haiku. Ci sono le cartoline, riceverete l'invito, comunque abbiamo gli inviti lì. E invece giovedì 11 maggio, sempre alle ore 18, sempre qui, ci sarà la seconda puntata della conferenza del professor Marco Pugliese sul problema dell'immigrazione e sul mare Mediterraneo. Io vi concludo qui il mio intervento, vi ringrazio tantissimo, ringrazio i nostri gentili ospiti e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Bruscamente la parola per salutarvi e ringraziarvi di essere venuti questa sera così numerosi. Ringrazio ovviamente la Biblioteca Provinciale che si è spesa per questo nostro incontro e ringrazio il professor Bonoldi e il professor Heitz, per aver accettato con entusiasmo non solo di partecipare al nostro convegno, di aver partecipato al nostro convegno del ormai 3 anni fa, del 2013, ma anche di avere davvero accettato volentieri di essere qui con noi questa sera, e il professor Bonoldi per anche lui aver partecipato al convegno e per aver scritto un saggio molto importante e denso sul che poi magari ci esporrà in parte sull'economia legata al fiume e per aver organizzato in prima persona questa nostra serata. Quindi grazie a tutti, a me spetta il compito in qualche modo di annoiarvi per un quarto d'ora prima di passare la parola realmente ai nostri due autori, per introdurvi davvero in maniera però sintetica e spero, ero ironico, spero in realtà di non annoiarvi affatto, di introdurvi questo volume. Ho scelto, come magari si può anche vedere, delle parole chiave per oggi. Ovviamente quelle sono delle parole chiave che io non utilizzerò completamente, altrimenti invece di un quarto d'ora probabilmente dovrei parlare per delle ore, ma in parte comunque utilizzerò questo sfondo alle mie spalle proprio per seguire un filo che è poi il filo che lega tutti questi saggi. Innanzitutto abbiamo così dato origine ad un volume che ponesse un problema, cioè il problema di come questo importante fiume per il nostro territorio abbia in qualche modo inciso sulle popolazioni che lo hanno visto scorrere attraverso i secoli, abbia inciso sulle forme del loro insediamento, abbia inciso sul loro immaginario, perché è inutile negare che oggi il legame che noi abbiamo con i corsi d'acqua è un legame differente da quello che avevano le persone del Medioevo o le persone, diciamo così, dell'Ancien Régime. Abbiamo una percezione ormai, come dire, una percezione legata a una visione paesaggistica di questo elemento naturale. Oppure lo vediamo, per esempio io come docente spesso sono coinvolto in queste iniziative, come un elemento ambientale a sé stante, quindi si va a studiare quali elementi popolano questo ambiente, ma in una idea sempre di distacco, di separazione tra la terra e il fiume, tra ciò che è coltivazioni, tra ciò che è economia concreta, no? Sviluppo, e ciò che invece scorre imbrigliato. E già di questo poi dovremmo parlare, perché l'aspetto appunto dell'imbrigliamento, di questa rettificazione dei corsi d'acqua, è un aspetto che noi viviamo, ma che in realtà non era così, non era vissuto, non era visto dalle popolazioni, perlomeno di, siamo già solo 150-200 anni fa. Per cui anche questa ricerca in qualche modo di un ruolo di questo fiume, da assegnare a questo fiume, è stato l'elemento, per così dire, che ha mosso il nostro convegno, che poi appunto ha dato origine a questo volume che appunto oggi qui presentiamo. Quindi tra queste parole io partirei ovviamente con la parola più importante, no? È la prima parola del volume, è del titolo Il fiume. No, il fiume. La domanda che qui, come in qualche modo motore dell'iniziativa, mi ero posto è possibile dire che anche per l'Adige, o meglio, che l'Adige abbia rivestito un ruolo di area fluviale? Cioè, una trentina d'anni fa uno storico medievista molto famoso introdusse, coniò un'espressione, area di strada, per indicare un'economia, un immaginario, una società che si era creata, peculiare, che si era creata in un tratto di strada della via Francigena, della via che portava, diciamo così, a Chambéry, no? Proprio tra l'altro toccando, lavorando sulle Alpi in qualche modo, no? Questo storico si chiama Giuseppe Sergi. Lui coniò questa espressione, area di strada. Allora, la domanda che mi sono posto io è: esiste anche un'area di fiume? Visto che comunque il fiume è stato un elemento di comunicazione fondamentale per il transito delle merci, per la comunicazione, l'incontro culturale, per lo scontro, no? Noi della Vallagarina, noi lagarini, siamo legati a questo importante evento del 1487, in cui le truppe tirolesi si scontrarono con le truppe veneziane e buona parte dell'esercito veneziano fu costretto alla ritirata brusca, improvvisa, non controllata, e finì nelle paludi e nelle acque, negli acquitrini dell'Adige, e questo causò la stragrande maggioranza dei morti in realtà della battaglia, perché con le corazze, con gli animali al seguito, incapaci di nuotare, si trovarono in una condizione ovviamente di difficoltà. Ecco, per dire un esempio, insomma, come questo elemento, questa via in qualche modo abbia inciso in quell'evento sulla incontro-scontro culturale, ecco, in questo caso uno scontro, ma all'interno del libro abbiamo anche felici incontri in qualche modo, e non solo scontri, quindi vettore economico, vettore culturale, vettore sociale. È quindi un'area, ha cambiato l'immaginario di questa, la percezione delle popolazioni che ci vivevano, ha costituito, e qui vengo alla seconda parola che anticipo in qualche modo rispetto alla seconda del libro, che è le terre, ha costituito un confine. Ecco, già questo è molto interessante, perché la seconda sezione, quella diciamo così, dopo quella descrittiva, e anche lì poi mi soffermerò due minuti su come abbiamo scelto di far descrivere ai nostri autori l'Adige, tratta proprio questo tema, che è un tema secondo me veramente centrale del volume, cioè se l'Adige abbia costituito o meno un confine, uno spartiacque, un confine territoriale o un confine immaginario, culturale, oppure entrambi. No? Quindi questa era una domanda a cui abbiamo provato a dare risposta, e il taglio, e qui così dico un elemento interessante di questo volume, è che il taglio che abbiamo volutamente dato al volume è un taglio diacronico, cioè questo non è un volume che parla solo di Medioevo, non è un volume che parla solo di storia moderna, quindi l'Adige nella storia moderna, l'Adige nel Medioevo, l'Adige durante il controllo romano del territorio di Tridentum, eccetera eccetera, no, sviluppa temi attraversando varie epoche. Ecco, quindi questo è un elemento anche che difficilmente si riscontra, no, in volumi di storia locale, perché poi alla fine è vero che abbiamo tratteggiato tutto, abbiamo cercato di mappare in qualche modo tutto il corso dell'Adige, per temi, ripeto, per problemi, però principalmente chi avrà modo di sfogliare questo volume troverà saggi relativi comunque all'area, diciamo così, noi la chiamiamo l'area tesina, dovremmo definire a nord Tesina in qualche modo, no? Quindi alla nostra regione, la regione sudtirolese, trentina, insomma, diciamo. Ecco. A questa domanda sui confini hanno provato quindi a rispondere vari autori. Elvira Migliario si è occupata per esempio del confine politico in periodo romano, e lei ha notato come non abbia costituito un confine reale. Nonostante sia stato un elemento importante per la penetrazione dei romani nella valle dell'Adige fino a Tridentum, appunto con la collocazione del municipium proprio lì, lungo il corso, che era diverso, perché molti di voi sapranno che il corso dell'Adige lambiva la città, anzi la percorreva la città, non era spostato come è ora, e quindi nonostante questo ruolo importante, non c'è mai stato un ruolo di confine, nel senso che i romani non hanno utilizzato l'Adige come un elemento per esempio difensivo, no, rispetto ad altre popolazioni, tranne invece in un distretto, nel distretto Atestino, quindi di Este, ma lì non siamo più nella nostra regione, siamo nella regione appunto Veneta. Poi appunto altre persone, ma qui io mi fermo perché il professor Reis probabilmente ci darà conto nel suo saggio, che è veramente molto interessante, altre persone per esempio sono occupate della politica veneziana sulle terre, quindi il confine in qualche modo, come dire, Venezia che cerca di penetrare attraverso i fiumi, no? Ed è Ermanno Orlando, si è occupato di questo, e appunto dei confini tra piccole giurisdizioni locali. Marcello Bonazza ha presentato invece una lotta giurisdizionale a San Michele all'Adige, tra il preposito degli Agostiniani di San Michele e il convento Agostiniano di San Michele e i Conti Thun e altri vari attori che per la modifica del corso del fiume, una roggia che viene costruita fatta costruire dai monaci, entrano in causa durante l'età moderna, perché questo significa cambiare in qualche modo il corso e quindi modificare anche le zone allagate, nuove zone allagate vuol dire proteggere oppure creare una nuova isoletta a favore di San Michele e danneggiando gli interessi della famiglia nobile. Ecco, quindi in qualche modo anche lì un confine, ma un confine legato a un micro territorio, no? E invece dicevamo, il professor Reis ha affrontato la questione invece di un confine immaginario, e qui io mi fermo perché, ripeto, vorrei che fosse lui a parlarne oggi, perché è davvero interessante quello che ha posto all'attenzione. Un'altra parola che troverete nella goccia dietro alle mie spalle sicuramente è quella delle terre, no? La seconda parola del titolo. Terre, perché un fiume viveva, adesso appunto noi lo vediamo irregimentato, come ho anticipato precedentemente, lo vediamo costretto, no, in questi quasi binari artificiali che sono i suoi argini, spolere dritto, ma in realtà era all'epoca, in epoca appunto medievale, in epoca moderna, era un intersecarsi di paludi, di zone, isole appunto che venivano create dalla corrente, sedimenti che spesso gli uomini utilizzavano per questioni economiche. Gli argini stessi venivano spesso utilizzati, e c'è un saggio dedicato proprio a questo, come una forma di transumanza inversa, cioè come spazi comuni che le comunità affidavano attraverso dei patti a dei pastori che nel corso dell'età medievale e moderna portavano i loro greggi a pascolare lungo gli argini, no? Appunto una realtà che in qualche modo abbiamo quasi del tutto, non del tutto per fortuna, ma quasi del tutto perduta. Poi appunto questo aspetto del legame con la terra, tra fiume e terra, scatena, come avevo anche in parte anticipato, un altro elemento, altre parole che trovate alle mie spalle, per esempio la nobiltà, nobiltà contro comunità, nobiltà contro città, oppure comunque gli interessi della città che si espandono sul fiume, e gli interessi invece delle comunità locali che devono in qualche modo preservare i propri diritti dall'arrembaggio, diciamo così, dei nobili, in particolare questo è molto verificabile dalle fonti in età medievale, che cercano in qualche modo di pretendere, no, territorio a vario titolo e in vari modi, no? A volte con la violenza, a volte con l'usucapione, a volte invece cercando accordi o minacciando, intentando causa o minacciando. Ecco, quindi anche questo è un tema che percorre tutto il libro e che si può trovare in vari scritti. Poi ho già anticipato l'espressione territorio, il vocabolo territorio, il confine, la convivenza, che è un altro termine che trovate alle mie spalle, perché l'Adige non è stato solo un vettore economico, non è stato solo un elemento naturale che ha permesso per esempio il trasporto di merci e il traffico su questa via d'acqua, attraverso le zattere, la fruttazione del legname, no, verso la pianura padana, eccetera. È stato anche un elemento di promozione sociale, quindi una sezione di questo volume è anche dedicato alla promozione sociale attraverso il fiume, cioè come il fiume ha costituito in qualche modo, e in questo caso lo ha fatto, un miglioramento per alcune famiglie. C'è un saggio che illustra proprio come una famiglia attraverso una società di navigazione si sia elevata socialmente, cioè sia passata attraverso vari gradi, i vari gradi potremmo definirli di libertà che esistevano nel corso dell'età medievale, che la libertà noi la diamo per scontata come una libertà, diciamo così, molto ampia, ma per esempio nel Medioevo c'erano vari livelli di libertà, no? Non tutte le persone godevano della libertà, c'erano anche persone in stato di servitù, ma anche all'interno dei liberi non tutti avevano gli stessi diritti, no? E questa famiglia, attraverso proprio il lavoro, attraverso il trasporto, la convenzione, il rapporto con il vescovo che concede a questa società la possibilità di lavorare, no? Di trasportare merci sul fiume, costruisce una base, no, come una scala che permetterà proprio di ascendere a delle posizioni sociali migliori. Ma anche appunto attraverso un altro scritto di un altro medievista, Bruno Andreolli, il rapporto per esempio che l'Adige ha svolto nell'incontro culturale e di istituti giuridici diversi nell'Alto Medioevo, cioè una zona di penetrazione, diciamo un'arteria di penetrazione ad esempio dei Franchi, Paolo Diacono, che è un noto storico che scrive in età carolingia ma che ci racconta la storia dei Longobardi, ci racconta proprio di questi incontri che erano letteralmente scontri in questo caso, di Franchi che dalla Val Venosta scendevano lungo il percorso, diciamo così, dell'Adige per porre d'assedio, in un caso molto grave addirittura a Trento, per depredare le comunità che vivevano e che si erano insediate lungo il corso, ma facendo così entravano anche in contatto, si stabilivano relazioni, soprattutto entravano in rapporti anche giuridici con le persone che precedentemente vivevano in quei luoghi e che magari erano soggettati ad altri tipi di leggi, ad esempio i Longobardi, no? Quindi c'è anche una relazione dedicata a questo aspetto, un incontro anche giuridico che ovviamente è un incontro culturale oltre che giuridico. E poi c'è l'aspetto della convivenza, come dicevamo, non solo appunto adesso continuando questo discorso tra queste componenti che si incontravano attraverso il fiume, per mezzo del fiume, ma una convivenza anche tra gli elementi. L'abbiamo citato più volte, abbiamo detto in questo mio tentativo di presentazione generale, questa alternanza di acqua, terra, e poi questa divisione tra acqua e terra ad un certo punto, come ci racconterà il professor Ice, ma non potrebbe essere completa questa descrizione senza pensare alla convivenza che tutte le persone che rischiavano quotidianamente il contatto con il fiume vivevano nel momento di un'esondazione, ad esempio. Quindi c'è una convivenza positiva, che è quella che ho cercato di descrivervi fino adesso, culturale, sociale, economica, eccetera, ma c'è anche una convivenza negativa, cioè nel momento in cui il fiume non si comporta come ci aspetteremmo si comportasse, no? E quindi lì bisogna convivere. Sempre nel Medioevo c'è un famoso atto in cui il principe vescovo di Trento permette agli abitanti di Egna di costruire il paese in un'altra zona, perché in pochi mesi prima si era verificata un'alluvione di proporzioni pesantissime che aveva raso al suolo o comunque danneggiato seriamente il precedente nucleo insediativo. Quindi già questo aspetto, no? Allora interviene il vescovo, che riesce a far costruire, a spostare, no, il paese rispetto al corso del fiume. Quindi, e un'ultima cosa che ci è piaciuta molto, perché insomma anche lì dare un'idea solo positiva del fiume non ci aggradava molto. Allora abbiamo pensato anche, certo c'è un'economia legale di cui il professor Bonodi, che al mio fianco, dà conto, spiega in maniera incredibilmente chiara e precisa, ma c'è anche un'economia illegale, sempre, c'è sempre stata un'economia illegale, no? Ci piaccia o meno, però c'è sempre stata. L'Adige come ha partecipato a questa illegalità? Se è stato un vettore anche di economia illegale, illecita, abbiamo visto che uno storico che si è occupato di questo, un archivista che aveva messo un po' il naso nei processi trentini, ha scoperto alcune cause che raccontano proprio il tentativo di trafugare, non pagare i dazi, riuscire in qualche modo a intrufolarsi di notte in particolare, trasportando merci illegalmente, o perché queste società non erano abilitate dal potere vescovile, che era il potere pubblicistico, quindi quello che aveva in qualche modo la possibilità e anche i diritti su tutto quello che era l'aspetto pubblico del Principato Vescovile, quindi fiumi e terre pubbliche, cioè tutte quelle che non erano private, ovviamente, e castelli, ad esempio, no? Poi dopo, piano piano, questa consuetudine vedremo che si sbilancia a favore della nobiltà, però inizialmente le famiglie che si stavano affermando nel XII-XIII secolo devono chiedere al vescovo la possibilità di costruire un castello, per dire, no? Quindi vengono inchiodate dal vescovo della possibilità, no? Si chiamavano carte castri, no? Carte di castello, no? E quindi il vescovo deve in qualche modo presidiare e stare attento che la sua anche economia, che ruota attorno anche ai dazi, quindi, e alla pagamento che riceve da queste società che trasportano merci lungo l'Adige, sia tutelata. E noi abbiamo appunto dei processi che ci raccontano di come alcuni cercassero di fare, diremmo noi oggi, i furbi, no? Ecco, quindi ultimo, e poi veramente concludo perché il mio quarto d'ora sta scadendo, forse è già scaduto, ultimo aspetto anche all'interno dell'incontro culturale che l'Adige, che il fiume ha favorito. Abbiamo voluto che alcune relazioni proprio ci parlassero di come il fiume ha inciso su alcuni artisti, quindi abbiamo da un lato la descrizione di chi non è nato lungo l'Adige ma ha visto e ha percorso questa valle venendo soprattutto dai paesi d'Oltralpe e quindi si è lasciato così, diciamo, trasportare, ecco, dall'immagine che poteva avere percorrendo le vallate e in particolare le strade lungo l'Adige di questo fiume. E poi abbiamo anche un saggio su come il fiume abbia inciso nell'arte veronese proprio dal Medioevo fino all'età contemporanea, perché Verona ovviamente è una città, come avete presente dalla sua conformazione, ricavata e costruita interamente in un'ansa del fiume, una delle poche anse in qualche modo rimaste, no? di ampio respiro, perché le altre appunto sono tutte state rettificate con la bonifica poi dei relativi territori. Ultimo aspetto culturale, ma che aveva anche delle applicazioni pratiche, c'è un saggio molto interessante su come nel Settecento, tra 6 e 700, si comincia anche a discutere all'interno delle accademie sulla necessità di bonifica e soprattutto di modificare, quindi è un dibattito che comincia ben prima poi dell'intervento asburgico o comunque dell'impero austro-ungarico a metà 800, e non solo nel nostro territorio, qui parliamo più che altro della pianura padana, della pianura, diciamo così, no, veneta, veronese in particolare, con prese di posizione di eruditi del calibro di Scipione Maffei, insomma, che si preoccupano di dare la propria impressione, la propria opinione sulla necessità di cambiare il corso, rettificare, modificare il corso dell'Adige per evitare danni causati da esondazioni, eccetera, eccetera, oppure non toccare questo elemento, no? E su questo nascono dei dibattiti che hanno proprio poi producono dei saggi scientifici, quindi in qualche modo la scienza che comincia a interessarsi a questo argomento deve argomentare, deve spiegare perché sia meglio oppure non sia meglio modificare il corso del fiume. E uno storico della scienza, proprio Francesco Luzzini, si è interessato a studiare questi scritti, no? Che spesso sono scritti polemici, in contrasto uno con l'altro, tra chi voleva e chi non voleva queste modifiche. Quindi, come vedete, per tirare un po' le somme della questione, un libro effettivamente molto stimolante. È stato per me bellissimo metterlo insieme, perché ho avuto anche la possibilità di lavorare con autori che, oltre ad essere stati molto gentili e disponibili, hanno davvero speso molte energie e dato vita a dei saggi davvero molto interessanti e densi, ma un libro che, al di là di questo, è stato un piacere riunire, no? Come un tessitore che piano piano elabora la propria tela, no? Proprio arazzo, proprio per la diversità o quantomeno di vedute, di impostazioni, ma anche di temi che questo volume affronta. Ecco, io spero di aver dato almeno una parte, dell'aver reso almeno una parte di questo interesse, relativo al volume. E a questo punto lascerei la parola, non so se ad Hans o ad Andrea, ad Hans per una specifica, diciamo, trattazione. D'accordo? Grazie. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Ringraziamo Valeria Trevisan e il suo staff per aver organizzato, diciamo, questa presentazione del bel corposo volume Il fiume, le terre e l'immaginario. È, diciamo, la terza presentazione nel giro di pochi mesi e, diciamo, sicuramente Bolzano è una sede adatta per presentare un libro dedicato all'Adige, ma ringraziamo soprattutto anche Vito Rovigo per lo sforzo che ha fatto di unire ben 15 contributi in un volume che è sicuramente di spessore. Unire 15 iniziatori in uno sforzo comune. Non è sempre facile, ma Vito ha fatto veramente un lavoro egregio e il libro ne è testimonianza, dobbiamo dire. L'importanza di questo libro sta nel fatto che tratta una tematica fondamentale, la tematica fondamentale dell'acqua. L'acqua sicuramente nell'attualità, nel presente, riveste un'importanza sempre più centrale. Da una parte c'è una scarsità d'acqua enorme a livello del pianeta, pensiamo alla Somalia, che in queste settimane sta vivendo, diciamo, una situazione atroce. Dall'altra parte abbiamo una situazione nella quale l'acqua arriva in abbondanza, in troppa abbondanza per il cambiamento climatico, e soprattutto, diciamo, ne sono testimoni i grandi fiumi che dove viviamo accanto. Ovviamente ricordate tutti quanti, diciamo, le vicende del Mississippi, che va oltre la sua riva, diciamo, negli ultimi 10 anni, dopo, a seguito del Hurricane Katrina. Pensiamo, diciamo, alle alluvioni che abbiamo visto negli ultimi anni lungo il Reno o lungo l'Elba, e diciamo che anche il nostro Adige non è stato sicuramente indifferente a fenomeni di questo tipo. Pertanto, diciamo, una valutazione storica dei fiumi, di un fiume importante come l'Adige, è sicuramente utile. Questo libro aiuta a capire moltissimo sulla storia di questo fiume, una storia che fino adesso ci sembra è stata studiata fin poco, diciamo, in una visione complessiva, poiché questo volume, diciamo, dopo molti anni riunisce, come ha illustrato Vito Rovigo, diciamo, vari punti di vista e anche un approccio in un certo senso interdisciplinare, che fa vedere qual è l'importanza del fiume per il territorio, per la società, per l'economia e anche per l'immaginario dell'Adige stesso. L'Adige sicuramente è un fiume di portata europea, dobbiamo dire. Non è, diciamo, un fiume di un dio minore, ma sicuramente ha una portata europea. Di questo sono convinto, anche se ha soltanto una lunghezza, diciamo, di 410 chilometri, ma arrivando dal Passo Resia a Porto Fossone, a Chioggia, arriva, diciamo, passa attraverso zone più differenziate, più variegate, e soprattutto ha un impatto climatico fondamentale, soprattutto per la nostra zona. Se la conca di Bolzano, se quella di Merano sono due, diciamo, centri urbani alpini che sono, diciamo, resi attraenti da questa mitezza del clima, ciò si deve soprattutto al bacino dell'Adige. È una situazione straordinaria che non troviamo in nessun'altra parte delle Alpi, poiché, diciamo, la valle dell'Adige e il fiume stesso sono due, come una grande camera climatica che fa entrare, diciamo, il caldo e rende il clima così mite com'è. È veramente una situazione straordinaria di cui vediamo i frutti nel vero senso e proprio della natura, della cultura. Diciamo, se tra Trento e Merano, diciamo, vediamo il più grande orto, diciamo, di mele di tutta l'Unione Europea, ciò è anche dovuto a questa situazione. Se il turismo della conca di Merano registra annualmente più di 8 milioni di pernottamenti, anche ciò è dovuto a questa straordinaria situazione climatica che connotiamo. Ciò nonostante, diciamo, l'Adige non ha mai, diciamo, raggiunto questa sfera di fascino, di mito, di atmosfera che per esempio è connotato col Reno, per esempio, dove, diciamo, il romanticismo del Reno è, diciamo, un topos noto in tutta l'Europa. Non ha ovviamente mai raggiunto minimamente, diciamo, il fascino del Danubio, che diciamo in un certo senso è rappresentato anche dalla musica, dal Donauwalz, eccetera, pipì. Ma l'Adige è sempre rimasto, diciamo, una specie di paesaggio che ha un fortissimo impatto sul territorio, sull'economia, sul clima, come dimostrerà anche poi Andrea Bonogli, ma diciamo come paesaggio non ha mai espresso questo fascino che in un certo senso merita. Ecco, io ho cercato di rendere vivo nel mio breve saggio come, diciamo, l'immagine dell'Adri sia cambiato profondamente nel corso dell'Ottocento, diciamo nel secolo che va circa dal 1830 al 1910, quando l'Adige, diciamo, da una specie di entità ancora non chiaramente distinta tra terra e acqua, con una bassa tesina, diciamo ancora pervasa da paludi, dove la distinzione tra acqua e terraferma non era ancora chiara, nel 800 diventa un fiume vero e proprio, come ha detto prima Vito, no? Una specie di binario nel quale corre l'acqua, diciamo, e questo cambiamento porta, diciamo, a un mutamento profondo della percezione anche del fiume stesso. È una percezione che ovviamente muta il rapporto tra uomo e fiume, poiché il fiume per la prima volta è soggetto in modo vero e proprio dalla tecnica, dall'intervento umano, dall'intervento infrastrutturale, diciamo a seguito di un lungo processo di regolamentazioni che partono fin dal 1817, vanno avanti fino alla rivoluzione del 48 in modo ancora disorganico, e poi a seguito delle grandissime alluvioni che si verificano intorno al 1868 del 1802 viene praticamente regolamentato, anche sostenuto, diciamo, da una tecnica infrastrutturale che ovviamente nei secoli precedenti non era ancora possibile. Diciamo è un mutamento che cambia il territorio stesso, che trasforma il territorio della Bassa Atesina, ma anche della Conca di Bolzano, da un territorio, diciamo, precario, ancora di utilizzo molto misto, di utilizzo rischioso, in un territorio di sicura portata economica. La Bassa diventa proprio, diciamo, un territorio straordinario, nello stesso tempo anche percorso dalla ferrovia che, diciamo, in un momento analogo trasforma il territorio come lo sta facendo anche il fiume. Questo è un processo affascinante che ovviamente cambia il rapporto tra società e fiume, cambia anche la percezione del fiume stesso. Questo, diciamo, è un aspetto che bisogna approfondire oltre, diciamo, la portata economica e infrastrutturale di questi interventi. È interessantissimo anche, ho potuto soltanto sfiorare l'aspetto nazionale del dibattito, poiché ovviamente la regolamentazione del fiume, portato avanti fin dal 1817, ha sicuramente acceso anche un sentimento di concorrenza tra, per esempio, il territorio trentino e quello del Sud Tirolo, della parte tedesca del Land, poiché chi arrivava primo con le regolamentazioni riusciva a danneggiare il secondo, e pertanto in un primo momento, se ci sono stati degli grossi interventi a sud di Bolzano, poi dal 1847 in poi si è cercato sempre di equilibrare, diciamo, gli interventi, a non suscitare, diciamo, animosità tra i gruppi linguistici, tra il Trentino e il Tirolo a sud di Bolzano. E questo, diciamo, è un processo estremamente interessante che rientra anche, diciamo, nella politica della monarchia asburgica, dove per esempio a livello di tutta la monarchia nel 1901 fu formulata la cosiddetta Wasserstraßenvorlage, una specie di grande progetto infrastrutturale che serviva, diciamo, attorno a Vienna, nei territori dell'est della monarchia, a trovare regolamentazioni dei fiumi che erano atti anche a pacificare, diciamo, i conflitti di nazionalità. È un processo estremamente interessante che si è verificato anche sul nostro territorio. e diciamo questa regolamentazione del fiume, che in un certo senso era anche riuscito, era un processo di costante mediazione attorno a tutto l'Ottocento, ha portato a anche una percezione diversa dell'Adige stesso. L'Adige era stato visto a seguito delle regolamentazioni come un grande fiume unico, mentre prima era una specie di misto tra palude, fiume, acqua e territorio. Con le regolamentazioni la percezione sul fiume cambia, si vede un grande nastro d'acqua che va praticamente, percorre la valle dell'Adige, e cambia con questo anche la percezione che questo è un fiume unico. E col nazionalismo ovviamente questo nastro viene definito o appartenente all'area alpina, come un adige delle Alpi, come ha detto il geografo Albrecht Penck, the Edge ist ein Gebirgsfluss, er ist ein Sohn, sie ist ein Kind, eine Tochter der Alpen, mentre dall'altra parte Olindo Marinelli, geografo italiano, sosteneva che l'adige era un figlio di pianura, era praticamente il contrario, era più legato, diciamo, al Mediterraneo, all'Adriatico. Insomma, questo era possibile soltanto dopo aver, diciamo, ridefinito l'Adige come fiume vero e proprio, in questo processo di cambiamento del paesaggio. Pertanto non ha pervaso soltanto l'economia, che ha cambiato profondamente l'assetto economico, ma ha cambiato, diciamo, anche l'atteggiamento nazionale sul fiume. E questo aspetto è sicuramente estremamente interessante e, diciamo, unisce elementi di studi storici che riguardano, diciamo, l'economia, la società, a quelle che sono dell'immaginario anche del nazionalismo vero e proprio. E pertanto siamo stati contenti di aver avuto l'opportunità di non approfondire, ma almeno di sfiorare, diciamo, questo sviluppo durante l'Ottocento, e questo è stato un po' il succo del mio contributo, che dà una prima chiave di lettura, ancora in un certo senso superficiale, ma diciamo con qualche tesi che può essere veramente uno spunto stimolante. Grazie della vostra attenzione. Un attimo che risolvo qua la cosa tecnica. Scudo. Ecco. Bene. Allora, anch'io volevo ringraziare Valeria Trevisan e Patrick Curo per l'organizzazione della serata. Valeria ha la struttura del maratoneta, fa come hobby, so che corre, ma corre anche nel lavoro, perché se guardate il programma che viene portato avanti da questa biblioteca è veramente un programma molto denso, e penso che sia un programma importante anche per la maturazione culturale di Bolzano. È un programma che viene portato avanti da molti anni. Quando si parla di politica culturale, beh, questi sono i contenuti significativi. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare in particolare Vito Rovigo. Però Vito Rovigo ha svolto un compito veramente importante nel coordinare questo libro, perché voi non sapete come lavorano gli storici. Gli storici si occupano di tempo, e quindi dovrebbero essere bravissimi per quanto riguarda i tempi, ma per quanto riguarda i tempi di consegna dei contributi a chi deve curare un libro, beh, su quello gli storici non sono particolarmente disciplinati. Ecco. E quindi Vito, da questo punto di vista, ha svolto un compito veramente da rimarcare, da sottolineare. Allora, quando ho parlato dei contributi, in particolare del mio, l'aggettivo che vi ho utilizzato di più è stato denso. Con questo va già spaventato. Io cercherò di non essere troppo denso e di riassumere un po' il contenuto del contributo che ho cercato di portare avanti. Il titolo del mio intervento è La risorsa mutevole. Qual è la chiave di lettura che ho voluto dare al ruolo economico dell'Adige? Ho voluto mettere in luce un aspetto che spesso viene sottovalutato nella percezione del ruolo che le risorse naturali hanno nell'ambito dell'economia, cioè il fatto che il ruolo delle risorse naturali, il ruolo economico, cambia molto nel tempo, cambia a seconda di quella che è la tecnologia disponibile, cambia a seconda di quelli che sono i regimi politici, le organizzazioni istituzionali. Ci sono molti esempi che si possono fare. Pensate, molti di voi avranno letto Moby Dick, no? Ecco, Moby Dick, perché si cacciavano le balene? Perché era così importante? Perché l'olio di balena era una fonte fondamentale per l'illuminazione all'epoca. Sono affari straordinari che i marinai di Nantucket, di queste isole della costa orientale degli Stati Uniti, fanno in quegli anni, ma nel momento in cui arriva l'illuminazione a gas, il business si chiude. L'illuminazione a gas dura per 20, 30, 40 anni, poi arriva l'illuminazione elettrica e anche quella vicenda si chiude. Tutti voi probabilmente avrete in casa un fax impolverato che non utilizzate più perché ci sono arrivati altri strumenti, oppure un armadio pieno di videocassette, anche queste destinate a non essere più utilizzate. Allora, questo vale ovviamente per la tecnologia e vale anche per il fiume. Anche il fiume cambia la sua funzione, ha cambiato la sua funzione economica nel tempo. Già Hans gli ha sottolineato un aspetto che invece è un aspetto di lungo periodo, se vogliamo, la funzione di regolazione del clima, no? Che chiaramente ha disegnato in qualche modo anche la storia agricola nel lungo periodo dell'Adige. Nel raccontare questa vicenda bisogna intrecciare il dato della geografia col dato della storia. Il dato della geografia è fondamentale nel caso dell'Adige. Allora, quella dell'Adige è effettivamente una struttura morfologica che caratterizza l'arco alpino. Se voi guardate le Alpi, l'asse dell'Adige attraversa le Alpi proprio nel punto in cui le Alpi sono più larghe. In assoluto. Le Alpi rappresentano, hanno sempre rappresentato nella storia, una sorta di barriera tra il mondo mediterraneo e l'Europa centrale, ma anche una zona di passaggio continuamente attraversata da flussi politici, di idee, flussi economici. E proprio nel punto in cui l'Adige e le Alpi sono più larghe, c'è questa struttura morfologica profonda fatta dal fiume, che parte dall'area padana. Ecco qua. Risale fino al cuore delle Alpi, qui poi si biforca, qua c'è l'Isarco, e arriva in prossimità dello spartiacque, tra l'altro in prossimità di due passi molto bassi e facilmente transitabili rispetto agli altri delle Alpi, il Resia e il Brennero, perché se voi andate a confrontare le altitudini, la conformazione di tutti gli altri passi, partendo da ovest, dal Col di Tenda, fino ad arrivare al Semmering, vedrete che gli altri passi sono più alti, sono più difficilmente transitabili, quindi c'è questa combinazione felice in qualche modo della natura, di questa struttura profonda dell'Adige, di due passi facilmente percorribili, e subito dall'altra parte si trova poi l'Inn, che collega il cuore delle Alpi con il corso del Danubio, con la pianura, e poi anche l'Ech, il altri fiumi che scorrono verso nord. Quindi veramente una serie di combinazioni che dà a questo percorso, quello lungo la valle dell'Adige, il Brennero, eccetera, un vantaggio competitivo, come dicono gli economisti, che poi si è concretizzato nella storia col passaggio di eserciti, imperatori, mercanti che hanno segnato in maniera importante il destino di queste terre. Ecco, le strutture dei fiumi si possono vedere in questa cartina, dove sono riprodotti i fiumi navigabili, quelli che erano navigabili oppure fluisbar, cioè percorribili con le zattere. E quello che si vede è ovviamente che la nostra struttura Adige-Inn veramente arriva a coprire il cuore delle Alpi, è quella più efficiente, più efficace all'interno dell'arco alpino. Quindi una struttura economica significativa che è stata utilizzata poi nei secoli in modi diversi, e io cercherò di ripartire questa descrizione della funzione economica in tre tempi sostanzialmente. Un tempo preindustriale, in cui l'Adige è essenzialmente, al di là della sua funzione di fornitori di acqua per le colture, che però è una funzione abbastanza limitata, nel senso che il fondo valle era molto meno sfruttato di quanto fosse oggi, per le ragioni che sono state dette in precedenza. Il fiume non era controllato, anzi il fondo valle era veramente impraticabile dal punto di vista delle colture, veniva utilizzato per altri scopi, per quella transumanza inversa di cui diceva Vito, insomma si usavano le aree gollenali per far pascolare il bestiame, ma la funzione fondamentale era una via di trasporto. le vie di trasporto sull'acqua sono state utilizzate in epoca preindustriale in maniera molto più intensiva di quanto si facesse oggi, perché trasportare una quantità considerevole di merci sull'acqua era meno costoso e più facile di quanto non fosse farlo via terra. Le strade erano in condizioni più difficili, la manutenzione era complicata, i fondi mancavano e le vie d'acqua erano vie invece che si prestavano in modo particolare al trasporto di merci voluminose. C'era la percezione che il fiume svolgesse una funzione importante, e allora, per non fare l'economista che parla solo di cose concrete, cercherò di andare anche sull'immaginario, che è una componente importante di questa cosa, ma è un immaginario che ci consente di andare a vedere come veniva percepita anche la funzione del fiume da parte di chi viveva nell'età preindustriale. Allora, quello che vi presento qui, che spero che si veda, è un sovrapporta che si trova a Palazzo Mercantile a Bolzano, un sovrapporta del XVII secolo, quindi del 600, un'opera non eccelsa, però diciamo di fattura abbastanza onesta, ma che rappresenta in modo piuttosto simpatico, diciamo, la percezione del ruolo anche economico che l'Inn, Enus, vedete qua, e l'Adige qui hanno nella terra tirolese. Allora, cosa rappresenta questo sovrapporto? Beh, innanzitutto è la rappresentazione dell'unione di due casate importanti. Da una parte ci sono gli Asburgo, la linea tirolese degli Asburgo, Leopoldo, vedete qui ci sono le armi degli Asburgo, e queste palle, le avete viste tutti, sono quelle dei Medici, che rappresentano il matrimonio tra Leopoldo d'Asburgo e Claudia de' Medici. Allora, perché Leopoldo d'Asburgo e Claudia de' Medici si sposano? Vabbè, le casate, sappiamo, le casate europee si cercano fra di loro, ma il motivo fondamentale è che Claudia de' Medici è un'ereditiera che aveva una dote coi fiocchi e le finanze tirolesi erano messe abbastanza male all'epoca. Quindi prima Claudia de' Medici aveva sposato il duca di Montefeltro, che anche lui aveva problemi finanziari, poi il duca di Montefeltro è morto, Claudia era di nuovo libera, quindi si sono fatti avanti gli Asburgo con Leopoldo, sposato Leopoldo, è morto anche Leopoldo, vabbè, chissà cosa faceva questa donna, questi uomini, succede una cosa però abbastanza insolita all'epoca. Questa straniera che arriva in Tirolo diventa in realtà reggente del Tirolo, e quindi abbiamo Claudia che, in nome dei suoi figli, tiene la reggenza del Tirolo per diversi decenni, mostrando anche una capacità notevole di gestione del territorio, quindi un personaggio che non senza difficoltà si guadagna il rispetto delle élite locali e che riesce a portare avanti, grazie anche al patrimonio di capacità diplomatica familiare e di affari familiari che ha alle spalle, riesce a gestire in maniera efficiente gli affari tirolesi. Allora, qui c'è questa unione di queste due casate e questa rappresentanza dei fiumi come una fonte di ricchezza importante per il territorio. Infatti il motto che vedete sotto, ecco, c'è un errore tra l'altro qua, c'è un errore, perché questo histagus che vedete tutto attaccato, in realtà va staccato, quindi qua probabilmente il pittore era di fretta, non se n'è accorto, i mercanti che avevano commissionato la cosa non erano particolarmente attenti a questi aspetti e allora l'hanno lasciato intero, però la lettura giusta è histagus, his cedat pactolus turgidus auco. Cosa significa? Ad essi, i fiumi che sono l'Adige e l'Eno, il Tago, che è un fiume che scorre tra la Spagna e il Portogallo e sfocia vicino a Lisbona, e il Pattolo, che è un fiume che si trova invece in Asia Minore, cedano il turgido oco. Allora, che cos'è? Traduzione molto libera, mi scusano quelli che hanno fatto il liceo classico, io ho fatto lo scientifico, quindi sono meno bravo da questo punto di vista. Allora, nella mitologia classica, sia il Tago che il Patolo erano ricchi di sabbie aurifere, erano portatori di sabbie aurifere. Il Patolo addirittura è il fiume da cui si dice che Creso abbia preso l'oro per coniare la prima moneta della storia, no? Quindi sono dei fiumi che sono in qualche modo la simbolizzazione nella mitologia, nell'immaginario collettivo profondo dell'Europa, della ricchezza. E il richiamo è quello: cedano quindi all'Eno e all'In e all'Adige questa ricchezza per portare la ricchezza anche nel nostro territorio. Questa è un'interpretazione che si dà, ma la ricchezza non è ovviamente la ricchezza dell'oro, è la ricchezza dell'attività commerciale che voi vedete rappresentata qui. Adesso si vede poco perché il quadro è piuttosto scuro, però posso provare a fare un artificio, vediamo se riusciamo ad ingrandire un po' l'immagine. No, di più grande. Proviamo a vedere se ingrandendo un pochino. Ecco, adesso magari si vede qua sotto, qua sotto potete notare ci sono delle imbarcazioni cariche di balle di merci che scorrono, e se guardate poi in qua quello che no, adesso però sono andato fuori, vabbè, lo stesso. Comunque nella, ecco così forse, ecco qui nell'angolo, questo angolino qui, quello che vedete è un campanile e un abside di una chiesa che forse riconoscerete perché è il Duomo di Bolzano. Allora, in questa rappresentazione l'Adige e l'In, due fiumi che scorrono, uno va a sfociare nell'Adriatico e quindi nel Mediterraneo, l'altro invece va a sfociare nel Danubio e quindi nel Mar Nero, due bacini molto lontani tra di loro ma che si aprono su spazi economici estremamente importanti, diventano, grazie al fatto di essere dei vettori importanti di merci, una fonte di ricchezza significativa per il territorio. Insomma, la nostra allegoria ci racconta in qualche modo questa storia, ed è una storia ovviamente che per Claudia De Medici è importante perché lei è stata una che ha promosso in maniera significativa il commercio su questo territorio, ha istituito il magistrato mercantile, ha regolamentato le fiere, ha attirato mercanti che arrivavano da Augsburg, da Verona, da Venezia, da Firenze, insomma ha dato veramente un accento importante all'attività economica sul territorio. Si diceva del commercio. Il commercio tra due delle aree più dinamiche dell'età preindustriale in Europa, cioè l'area mediterranea, l'area italiana, e la Germania meridionale con le sue grandi città mercantili, Augsburg, Ulm, Norimberga, eccetera, era fondamentale per il Tirolo, perché il Tirolo aveva una struttura economica che non gli garantiva l'autosufficienza. Qui ho un bilancio che ovviamente non è un bilancio preciso come i nostri, qua si parla di ordini di grandezza, tra l'altro è interessante andare a vedere i documenti ufficiali dell'epoca dove sbagliavano a fare le somme anche, no? Uno le rifà. Noi oggi abbiamo Excel, ci mettiamo dentro i dati e ci viene la somma giusta, all'epoca sbagliavano anche di qualche centinaio di migliaia di fiorini. Però si vede benissimo come dal punto di vista dell'approvvigionamento dei cereali, per esempio, il Tirolo, l'agricoltura tirolesa è un'agricoltura di montagna, povera, non ce la faceva insomma, a coprire i bisogni del territorio. E anche dal punto di vista della manifattura industriale non è che ci fosse della manifattura, non è che ci fosse tutta questa attività. Allora, come si integrava questo sbilancio della bilancia commerciale con altre attività importanti? L'esportazione del legname, per esempio, era fondamentale, questa attività qua che vi ho segnato in rosso, e i servizi di trasporto, quindi tutti i servizi che venivano fatti per di sostegno a questi flussi commerciali fra Italia e Germania che scorrevano attraverso l'Adige, l'Isilacco, il Brenner, eccetera, questi percorsi importanti. Quindi è stato per tutta l'età preindustriale il mondo che girava intorno ai servizi di trasporto, intorno ai servizi mercantili, che sfruttava il corso dell'Adige, è stato un elemento importantissimo di riequilibrio per l'economia del territorio. Come funzionava la navigazione sull'Adige? Noi abbiamo testimonianze storiche abbastanza risalenti. Il primo documento che parla di navigazione sull'Adige risale al IX secolo, parla di delle corvée che i villici della Val Lagarina dovevano fare per un monastero veronese, che prevedevano anche un trasporto sull'Adige. Ma in realtà è assai probabile che l'Adige venisse utilizzato come via fluviale anche in precedenza, assai probabile che fosse utilizzato in età romana, addirittura si è parlato di un utilizzo in epoca preistorica. Voi sapete che qualche anno fa sono state scoperte delle importanti statue stele vicino ad Arco, che erano questi monumenti preistorici, e in realtà per alcune di queste si ipotizza che il materiale utilizzato sia marmo di Lasa, che viene dalla Val Venosta. come sarà stato trasportato questo masso enorme di marmo da Lhasa ad Arco? Beh, è abbastanza improbabile che tutto il percorso sia stato fatto via terra, quindi si può ipotizzare un utilizzo della via d'acqua. E anche la collocazione della necropoli di Vadena vicino a un insediamento importante, così vicino al fiume, probabilmente presuppone anche un utilizzo dei trasporti via d'acqua. Quindi c'è una lunga storia di utilizzo della via d'acqua, un utilizzo che da quando abbiamo testimonianze affidabili viene fatto con tecniche diverse in salita e in discesa. Allora, per la navigazione in discesa, come si vede in questa riproduzione qua, si utilizzavano soprattutto le zattere, vedete queste zattere che sono qui attraccate alla riva. Perché? Perché in questo modo si potevano attuare quelle che gli economisti chiamano economie di scala, cioè tradotto in italiano prendere due piccioni con una fava, ovvero dei beni fondamentali che le Alpi riuscivano a vendere in pianura era il legname che era richiesto in grandissima quantità dalle città padane per le costruzioni, per il riscaldamento come legname da fuoco, ma che veniva chiesto in quantità enorme per esempio dall'arsenale veneziano per la realizzazione delle navi. Quindi era veramente un bene importante che le Alpi disponevano in grande quantità, e il modo più comodo per trasportarlo era quello di farlo scorrere lungo i fiumi, era la via più comoda. Allora veniva convogliato, per esempio nel caso nostro, le zone di produzione più importanti erano quella dell'Atemar, la zona dell'Atemar era una zona importante, si riusciva a convogliarli lungo i torrenti e farli arrivare poi a Bronzolo. Bronzolo era diciamo il hub, oggi si direbbe, era il punto in cui si concentravano le produzioni di legname del territorio, e lì veniva legato in fasci e poi trasportato lungo l'Adige. Allora, ovviamente, essendoci questo comodo mezzo di trasporto costituito dalle zattere di legname, perché non utilizzarlo anche per caricarci le merci che venivano trattate alle fiere di Bolzano e trasportarle quindi verso le destinazioni italiane, verso Verona soprattutto, che è un centro di smistamento importante, ma poi anche fino all'Adriatico. Ecco dunque che gli zattieri diventano dei trasportatori di merci che portano le merci dei mercanti verso l'Italia. E in su le zattere non possono andare. E allora come veniva risolto il problema? Beh, il problema viene risolto, come si può vedere in questa stampa che risale al 1837, veniva risolto con la cosiddetta navigazione ipotrainata. Cioè il barcone che vedete qui stracarico di merci veniva tirato da questi poveri cavalli che camminavano lungo la riva e tiravano controcorrente la barca che risaliva e arrivava a Bronzolo, che era ancora una volta il capolinea di questo commercio. I tempi, quanto ci mettevano? Allora, a scendere ci volevano circa, tra Bronzolo e Verona, ci volevano circa 2 giorni. Mezza giornata fino a Trento più o meno, e poi un giorno e mezzo per arrivare a Verona, perché di notte ovviamente dovevano fermarsi, altrimenti era pericoloso. Poi c'erano alcune zone, come è stato detto prima, l'Adige era molto tortuoso, alcune zone che erano pericolose per la navigazione, bisognava andare piano, fermarsi, insomma c'era una serie di problemi. Comunque ci volevano 2 giorni per arrivare a Verona. Risalire ci voleva un po' di più, circa sei giorni da Verona a Bronzolo. Però era un mezzo che era ampiamente, una via che era ampiamente utilizzata, e i mercanti importanti e anche pieni di risorse finanziarie che operavano a Bolzano ci tenevano molto a che questa via fosse utilizzabile, non perché la via di terra non venisse impiegata, anzi si continuava a utilizzare ampiamente, ma perché per i mercanti era comunque sempre importante poter scegliere sul percorso che in quel momento era migliore. C'era un momento in cui c'era la secca, in cui c'era poca acqua, potevo utilizzare la via di terra. C'era invece stato un periodo in cui c'erano state piogge e la via di terra era poco praticabile o lenta, potevo utilizzare invece la via d'acqua. Insomma, c'era, tenersi aperta la possibilità di utilizzare percorsi alternativi dava alla direttrice della Valle dell'Adige una capacità competitiva rispetto ad altri percorsi che contribuiva a renderla un percorso importante. È ovvio però che questo utilizzo, ecco qua c'è una frase che ho tratto da un documento del 1810 che racconta appunto dell'importanza della produzione del legname, anche dei dazi che venivano imposti sul legname, che era una voce d'ingresso importante per l'erario tirolese. E questa è una piccola annotazione su come funzionava il commercio dell'epoca. Spero che non ci sia tra voi nessuno di Bronzolo o di Laives, perché questa è una, diciamo, un'accusa che i mercanti fanno ai trasportatori di Bronzolo, dicendo che insomma che sono rustica gente che tratta molto male le merci che vengono caricate sui loro carri, perché il problema è che da Bronzolo bisogna arrivare al mercato di Bolzano, e lì c'erano i laivesotti e gli abitanti di Bronzolo che ne approfittavano della situazione, caricavano sui carri e li portavano a Bolzano, però queste balle di seta insomma venivano trattate abbastanza male. Il mercato a un certo punto pensano addirittura di costruire un canale da Bronzolo a Bolzano per arrivare direttamente in fiera, però la cosa costa troppo e alla fine i mercanti desistono. Ma col tempo le condizioni cambiano, vi dicevo. L'utilizzo di una risorsa è un utilizzo che appunto dipende dalla tecnologia, e l'Ottocento inevitabilmente segna il cambio di questo periodo. La cosa fondamentale che cambia questo gioco è la ferrovia, chiaramente. Quando si cominciano a realizzare le ferrovie, il gioco cambia, e inizialmente per il Tirolo è un pessimo affare, perché la realizzazione delle ferrovie inizialmente viene fatta attorno al Tirolo. Il Tirolo non viene attraversato dalle prime linee ferroviarie. Perché? Perché chiaramente la zona presenta alcune difficoltà tecniche rilevanti per fare passare le linee ferroviarie. Così le prime linee ferroviarie aggirano le Alpi a est, per esempio attraverso il Semmering, e poi entrano in pianura padana, e questo devia in maniera anche rilevante i flussi commerciali che prima passavano attraverso il Tirolo su altre direttrici. Chiaramente qui si è preoccupati, si cerca di correre ai ripari in qualche modo. Addirittura a un certo punto si arriva a proporre la navigazione a vapore sull'Adige per consentire, e sull'Inn per consentire di migliorare la situazione, però anche qua l'investimento è troppo consistente. E poi alla fine, grazie insomma all'unione delle forze politiche ed economiche del territorio, tra il 1859 e il 1867 si arriva a completare finalmente la ferrovia del Brennero, e quindi a riprendere anche l'utilizzo di questa risorsa. Però a quel punto l'Adige come via di commercio non serve più. Qua c'è una foto di una delle ultime testimonianze di fluidazione del legname, siamo nel 1910, vedete, in qualche modo è simbolica, dietro c'è il ponte della ferrovia, uno dei ponti della ferrovia, e questo segna il passaggio di un'epoca. E il fiume è già stato rettificato, come è stato detto in precedenza. E quindi passiamo al secondo tempo della mia storia, che è un tempo in cui il fiume, più che essere un vantaggio per l'economia, è stato un problema. C'è stata una fase in cui non era più sfruttabile dal punto di vista dei trasporti, ma in cui il fiume costituiva un costo rilevante. Anche in precedenza lo era, perché le inondazioni, le esondazioni del fiume hanno sempre costituito un problema rilevante. Ma a partire dal tardo Settecento, e poi in maniera molto più concreta dal 1817 in avanti, c'è stato un notevole impegno da parte dell'autorità del territorio per rettificare il fiume, con un duplice obiettivo. Da un lato c'era comunque l'idea di renderlo una via di trasporto più facile, ma l'obiettivo fondamentale era quello di rendere coltivabile il fondovalle. E questo era importante in un contesto come quello della monarchia sbucica dell'epoca, che da un punto di vista demografico stava crescendo e che aveva assoluto bisogno di sfruttare i terreni di fondovalle. Ma l'investimento è stato un investimento estremamente consistente, che ha dissanguato insomma le risorse locali. Tra l'altro quello che accadeva era che questi progetti, che erano progetti impegnativi, si dilungavano per molti anni, poi trovavano un'accelerazione immediatamente dopo le alluvioni, un po' come succede in Italia, no? Quando ci sono i disastri si interviene, no? Questa è una cosa insomma che si può notare anche all'epoca. Il rush finale, diciamo, dei lavori è tra il 1880 e il 1891, e il 1882 è stato effettivamente un anno che aveva conosciuto un'alluvione terribile nella Valle dell'Adige, che aveva portato a molti danni. Ma alla fine si arriva a rettificare l'Adige, di fianco scorre la ferrovia, quindi è cambiato il volto della valle, e poco dopo giunge un'innovazione tecnologica che assegna un nuovo compito economico all'Adige, e questa è l'elettricità. Allora, l'elettricità per il Tirolo ha un significato particolare, perché il Tirolo era rimasto in qualche modo escluso, prima avevo detto, dai grandi flussi commerciali, ma poi è rimasto escluso anche dal processo di modernizzazione portato avanti dall'industria, dall'industrializzazione, perché non aveva sul territorio le risorse energetiche giuste, mancava il carbone sostanzialmente, che era il fondamento dell'industrializzazione. L'invenzione dell'energia elettrica diventa invece un vantaggio per il Tirolo, dispone invece di grandi quantità di acqua che possono essere utilizzate per la produzione di energia elettrica. Ecco così che nel 1898 viene costruita sull'Adige, a nord di Merano, a Tell, la prima centrale idroelettrica sul fiume. C'erano state altre centraline piccole che erano state costruite, ma la prima centrale sul fiume viene costruita lì. È importante per due motivi: il fatto che viene coinvolto per la costruzione di questa centrale Oscar von Miller, che era uno dei più grandi progettisti di centrali idroelettriche dell'epoca, un ingegnere bavarese, tra l'altro fondatore anche del Deutsches Museum di Monaco, quindi una figura veramente importante, e quella centrale dal punto di vista tecnologico era veramente sulla frontiera della conoscenza dell'epoca. Il secondo aspetto importante è la gestione, perché la gestione di questa centrale viene fatta da un consorzio composto dai due comuni di Bolzano e Merano. L'Echwerk, quella che è stata l'azienda elettrica, poi energetica e oggi confluita in Alperia, che è un fattore importante, perché in questa fase, nella fase iniziale della diffusione della produzione idroelettrica sul territorio tirolese, i protagonisti sono i comuni. Quindi sono le comunità locali che in qualche modo gestiscono la risorsa elettrica. È una risorsa importante perché cambia in maniera fondamentale la vita delle persone. Immaginate di vivere un giorno senza energia elettrica. Ecco. Allora, l'arrivo della lampadina, i motori elettrici, la disponibilità di energia per la ferrovia, cioè, sono tutte state cose che hanno cambiato in maniera importante il consumo sul territorio, ma anche è stata una fonte di energia che ha consentito l'insediamento di attività produttive fondamentali. Ecco, questa cosa, se viene gestita da soggetti locali, diventa un elemento strategico in un progetto di crescita complessiva del territorio. E così è stato nella fase iniziale. Le cose sono cambiate però nuovamente dopo la Prima Guerra Mondiale, per due motivi fondamentali: un motivo di carattere tecnico, se vogliamo, un motivo di carattere politico. Motivo di carattere politico potete intuirlo anche voi, insomma, era chiaro che ci fosse un forte interesse da parte dei grandi soggetti economici nazionali italiani nel gestire queste risorse così importanti, no? Le risorse erano gestite solo parzialmente dalle piccole centraline costruite dai comuni. In realtà la disponibilità di energia potenziale in Alto Adige era molto maggiore, però richiedeva investimenti e tecnologie che i comuni non potevano sostenere da soli, mentre invece le grandi società elettrocommerciali italiane, la Edison, la SIP, la SADE, disponevano di enormi risorse da questo punto di vista, e quindi potevano intervenire su questo territorio anche con il sostegno ovviamente della politica, che era interessata al controllo di queste risorse. Quindi c'è una lunga fase in cui il controllo di questa risorsa importante viene sottratto in qualche modo ai soggetti locali, che non sono del tutto innocenti però, perché ci sono alcuni documenti che testimoniano come ci sia una cessione volontaria e non gratuita delle concessioni da parte dei comuni nei confronti di queste società, e poi resta in mano a questi soggetti per molto tempo. Quindi le grandi centrali che vengono costruite in Alto Adige vengono costruite dalla SIP, vengono costruite dalla Montecatini, vengono realizzate da questi soggetti. Nel 62 poi c'è la nazionalizzazione di una parte importante di questi impianti, che passa all'Enel, non tutti, quelli della Montecatini restano alla Montecatini, passa, e quelli dei comuni restano ai comuni, però comunque l'Enel comincia ad avere un controllo importante su molte centrali. E solo in tempi recenti c'è stato un ritorno, no? Anche qua la storia chiude in qualche modo il cerchio, e a partire dagli anni 90 con la legislazione europea c'è stata una spinta alla competizione, che ha finito alla fine per far prevalere controllo sulla fonte di energia locale da parte di soggetti del territorio. Questo sia in Trentino che in Alto Adige, in qualche modo ormai la produzione di energia elettrica viene controllata da soggetti locali, da una parte Dolomiti Energia e dall'altra l'Alperia, dovete sapere come hanno scelto questo nome, comunque è l'Alperia che gestisce questa cosa, la conoscete tutti perché vi arriva la bolletta a casa. È importante che il ritorno di questa gestione sia di nuovo in mano al territorio, perché ovviamente la produzione e la vendita dell'energia elettrica costituisce veramente una partita economica fondamentale ed è anche uno degli strumenti che forse in futuro, forse, dico forse perché ovviamente non si possono fare grandi previsioni da questo punto di vista, consentirà ancora di finanziare almeno in parte un'autonomia molto costosa e difficile da finanziare attraverso altri mezzi. Però costituisce anche una responsabilità. Noi tutti abbiamo vissuto in anni recenti dibattiti, questioni anche giudiziarie, insomma, legate a questa alla gestione di questa difficile risorsa. Insomma, è una prova, penso, anche di maturità per la società locale nel gestire le risorse del proprio territorio. Grazie per l'attenzione. Una via d'acqua e quindi ha permesso il transito dalla nostra zona fino alla pianura Vendita. Noi durante il periodo del Gire, il passaggio del Gire verso Venezia, in quel periodo lì si utilizzava, in pratica, per arrivare a Venezia si passava probabilmente, il Gire del passato fino alla, arrivando alla Ghetti, risalito la montagna, Val di Cembra, Val Sugana è arrivato a Venezia. Mentre mi sembra che fosse possibile in quel periodo lì comunque transitare attraverso l'Adige e attraverso l'Adige si arrivava giù nel basso della pianura Vendita, quindi vicino a Venezia. Quale può essere la motivazione per cui venivano utilizzati questo passaggio attraverso le montagne, che era certamente molto più difficoltoso, molto più oneroso, perché diciamo, il trasporto e tutto il servizio che veniva diciamo che era necessario era costoso, di fatto considera quali erano allora i costi per transitare, per fare un breve tratto di strada. Quale può essere la motivazione per cui se è stato questo diciamo passaggio attraverso una via più difficile o è stato utilizzato una via più difficile che l'altra? Lei ha detto che è una domanda banale, non lo è affatto, chiaramente. No? Ecco, tra l'altro proprio un paio di mesi fa io e mia moglie una domenica ci siamo inerpicati sul sentiero che da Laghetti parte e va su, che è un percorso molto bello, no? Che dà dei bei scorci sulla Valle dell'Adige. Allora, io la motivazione non la conosco, probabilmente qualcuno l'ha studiata, però una cosa che posso dire è che in realtà la vicenda del Dura è una vicenda tipica, nel senso che la percorribilità non era quella dell'auto Brennero o della ferrovia, di questi percorsi. C'erano mille ragioni per cui bisognava utilizzare una viabilità alternativa e questo faceva sì comunque che i percorsi di contorno restassero sempre utilizzati e sempre aperti. Allora, le ragioni potevano essere un'inondazione che rendeva impraticabile, vicende di natura militare per esempio che rendevano difficile il passaggio, oppure una cosa che all'epoca veniva considerata molto, la presenza di malattie per esempio. Allora, proprio su questo, nel 1635 succede che un dazio del principe vescovo di Bressanone, che si trovava in Val di Fassa, che di solito vedeva un passaggio molto molto rado di qualche merce locale eccetera, comincia ad avere merci importanti, cominciano a passare balle di seta eccetera. Allora ci si domanda: ma perché questa cosa? E guardando si è scoperto che nello stesso periodo a Bolzano c'era la peste. Era un periodo in cui, arrivando da nord, prima a Hall, Innsbruck e poi a Bolzano, c'era stata una epidemia di peste che ha colpito anche un'altra parte del fondovalle, insomma causando molti decessi. Allora, cosa si faceva? Si evitava chiaramente il fondo valle, si cercavano percorsi alternativi attraverso le montagne, più scomodi ma decisamente più sicuri da questo punto di vista. Quindi questa disponibilità di percorsi alternativi crea in realtà un sistema intorno alla via dell'Adige che rende tutto molto più flessibile e utilizzabile, insomma. È una domanda molto personale, la posso fare lo stesso. Prima si doveva qua, quando lei spiegava Ronzolo, sì, qui c'era un bel pezzo scritto grande e c'era dentro la parola il paese, è il mio paese d'origine, ma è stato troppo in fretta, mi è passato, io non ho capito, non lo cerchi, me lo dica. Deutschnofen. Esatto, era, ecco, perché, eccolo qua, Deutschnofen. L'avevo visto. Sì. No, c'entra perché era la zona di produzione del legname. Ah, ecco, sì. Sì, sì, lo è ancora, ancora oggi e all'epoca. È pieno di legname. Sì, sì, sì. Questa è una relazione di due funzionari napoleonici, no? Che nel 1810, quando l'Alto Adige viene e diventa Alto Adige, realmente, quello è il momento in cui viene coniato il termine, no? Viene annesso al Regno d'Italia, fanno una rilevazione molto precisa di quelle che sono le caratteristiche geografiche, ma anche delle caratteristiche economiche del territorio, perché a Napoleone ci ovviamente interessava poter sfruttare per l'impero francese quelle che erano le risorse presenti sul territorio. Il legname ovviamente è una risorsa importante da questo punto di vista, e quindi anche Deutschnofen è importante per i francesi, no? Si è parlato poco di arte, c'è qualcosa, l'argomento anche arte. Sì, sì, ma sì, noi abbiamo in questo libro c'è un c'è un saggio dedicato proprio a come l'arte, ovviamente è un saggio tra l'altro molto interessante perché è proprio legato all'iconografia del fiume, quindi non è solo, io prima l'ho presentato come legato, visto che anche la studiosa vive e lavora, lavora all'Università di Verona e quindi pone l'attenzione molto per esempio all'iconografia lateriana, di come il fiume viene indicato, oppure al genius del fiume su Ponte Pietra, che è ancora lì presente, no? Quindi una divinità probabilmente romana posta, come dire, in maniera tutelare quasi, no? A proteggere la città dal fiume, e poi soprattutto San Zeno, quindi ai portali di San Zeno. Però in realtà poi l'autrice utilizza intanto anche altri, anche il bellissimo sovrapporto che ci ha fatto vedere, bellissimo, non so, di fattura così, però interessantissimo, ecco, interessantissimo. Ma soprattutto poi dopo si spinge anche a vedere proprio per esempio l'utilizzo di, per esempio, di Pompeo Marchesi a Milano nell'Arco di Trionfo, che poi è vicino a Parco Sempione, no? Dove è rappresentato, sono rappresentati i quattro fiumi più importanti e c'è l'Adige, e quindi si dilunga anche, diciamo così, su questo aspetto. Quindi diciamo che questo il lavoro che riguarda, diciamo, la sfera artistica e di come l'Adige ha influito non è tanto mappare gli artisti che sono nati o hanno trattato il fiume, ma proprio come il fiume è stato rappresentato attraverso i secoli. Nel caso di San Zeno, per esempio, è una cosa molto interessante e carina che si sapeva, ma insomma è trattata molto chiaramente qui. San Zeno è legato moltissimo al fiume, no? Perché c'è anche nella sua agiografia, no? Nel racconto dei suoi miracoli, eccetera, eccetera, lui viene a contatto più volte con il fiume, addirittura una volta salva la città da un'alluvione, un'altra volta invece il fiume fa da sfondo a un'altra vicenda, viene portato, insomma, e compie un esorcismo, no? E anche lì però è legato, insomma, al fiume, perché utilizza le acque che, per questo esorcismo, che scorrono lì. Tra l'altro San Zeno è proprio, no, la basilica stessa è costruita, no, vicino proprio al fiume, ecco, prospiciente. Ecco, quindi da questo punto di vista l'abbiamo coperto, poi in maniera appunto dedicata però sempre al fiume, cioè il fiume in questo volume doveva essere il centro, no? Non dovevano esserci altri, diciamo così, distrazioni, no? Mi sembra che anche le due relazioni l'abbiano presentato, no? Pur essendo molto sintetiche rispetto a quello che in realtà contengono. l'abbiano presentato bene, cioè l'idea era proprio quella di porre il problema del fiume e di come il fiume si è rapportato, cioè più che come il fiume è stato sfruttato, quali erano le possibilità che il fiume offriva, no? Più che lo sfruttamento economico magari di questi, di raccontare come nel Medioevo si utilizzavano i traffici lungo l'Adige, vedere come attraverso questi traffici, e questo si sa, no? Cioè, molte famiglie hanno costruito trentine o comunque anche alto Tesino e su Tirolesi, hanno costruito e poi magari sono inurbate a Verona o in altri centri della pianura, ma i Saibanti stessi, no? Hanno costruito attraverso la fruitazione o commercio, grazie al fiume, la loro posizione sociale. Ma qui non era questo, sono dati abbastanza noti, no? Ma lì è un uso strumentale in qualche modo del fiume, mentre invece noi volevamo vedere come il fiume potesse modificare anche gli assetti sociali. Prima nella famiglia di cui vi parlavo sommariamente prima e di cui mi sono occupato io, e questa famiglia poi da Mori, dove viveva, si trasferisce a Bolzano, quindi copre tutto l'arco, diciamo così, della navigabilità dell'epoca, no? Perché poi all'epoca dove c'è attualmente Ravazzone non era più percorribile per un tratto l'Adige, perché c'erano le onde, le chiamavano, no? Proprio le onde, quindi delle rapide che non permettevano, infatti adesso c'è lo sbarramento non a caso, no? della diga, appunto, per lo sfruttamento, eccetera. E questa famiglia mentre si eleva socialmente si cambia anche i propri interessi. Per esempio un esponente di questa famiglia diventa un importante notaio di Bolzano, elementi inurbandosi nel corso del 300, tutta la famiglia, la parte più ricca, diciamo, della famiglia si trasferisce qui e comincia a curare altri aspetti, l'economia e il commercio, ma non più di trasporto, no? Ma sul territorio. Quindi in qualche modo ho dato testimonianza anche di questo. Tutto è stato permesso però attraverso un sapiente utilizzo del fiume, ma anche il fiume in qualche modo ha reso possibile questa elevazione, ecco, che per altri invece non poteva avvenire. C'è un'altra domanda però. Sì, no, è una domanda mi deve trasversare. In qualche modo il flusso del fiume Brenta influisce con, si interseca con la storiografia dell'Adige, perché un po', cioè, voi avete trattato il tema, diciamo, da Resia fino a Roma, però l'Adige prosegue avanti fino all'area. Era la mia curiosità, visto che in qualche modo è quasi parallelo il Brenta, anche lui navigabile, sì. C'è un rapporto tra di loro? Ma allora, per esempio, nel saggio di Orlando dedicato proprio alla Repubblica Veneta si cita il fiume Brenta, perché rientra proprio nella analisi che l'autore fa di come Venezia sfruttasse, per ragioni principalmente commerciali, non tanto di penetrazione militare o di altri interessi, principalmente commerciali, utilizzasse tutte le vie d'acqua a disposizione, no? Quindi si garantisse in qualche modo la percorribilità di questi fiumi. Come rapporto tra i due non è emerso, devo dire, molto, anche quando lo fa l'autore, lo fa facendo sempre degli esempi su come appunto Venezia agiva, no? Agiva sul Po, agiva sull'Adige, dice, no, stabilendo spesso patti con le comunità, le città locali oppure i signori che avevano il controllo di alcune zone di questi fiumi. Però dal punto di vista proprio di un rapporto, diciamo così, di interscambio, eccetera, non è stato indagato. Era navigabile, sì, solo nel tratto finale. Sì. Sì, c'è un elemento però che è quello dello sfruttamento del legname, no? Cioè, da questo punto di vista, sì, sì. Il sistema Brenta-Adige è un sistema che consente di sfruttare diversi versanti montani per la fruitazione del legname. Addirittura al Brenta c'è una fase in cui è più importante dell'Adige ancora per il trasporto del legname per Venezia. C'è una fase di intenso sfruttamento della zona del Primiero, eccetera, fa sì che, se si guardano i dazi che vengono pagati sul fiume, quelli sul Brenta sono più alti addirittura di quelli sull'Adige, quindi in realtà c'è un sistema, no, per lo sfruttamento del legname che in qualche modo si crea fra le due realtà. Anche E anche il Piave, ovviamente, certo, certo. Sono tutti sistemi che in realtà non avevano nessuna sistematicità. È interessante, no, questo, infatti, nel senso, il professor Bonaldi ha parlato benissimo del, quando ha reso prima la domanda, la prima risposta, no? Sul discorso perché Dürer può aver scelto quella via. Ha parlato di sistema, ed è vero, cioè c'era veramente, c'erano. La storiografia recente, soprattutto medievale e protomoderna, cioè della parte iniziale dell'età moderna, ha insistito molto sulla rivalutazione dei rapporti intravallivi, cioè di queste vie di transito intravallive, no? Tra valle a valle, perché altrimenti, perché erano sempre state studiate fino a alcuni decenni fa solo le grandi arterie, no? Quindi ovviamente la via del Brennero e quindi l'Adige, la Claudia Augusta, eccetera, ma erano rimaste poco conosciute, e le relazioni che invece ci sono e sono frequentatissime comunque come vie, no? Date per, concesse da queste vie. Ed è la cosa interessante è che due volte è venuto fuori il sistema, in qualche modo sistema idrografico, potremmo dire così, sistema viario, ma in realtà noi lo vediamo come un sistema anche efficiente. In realtà poi se si guarda come vengono trattate, no? Dagli vari istituzioni che avevano le relazioni, i rapporti con queste vie o con questi fiumi, non emerge una visione di insieme unitaria. Cioè, nell'età medievale, nell'età moderna si ragionava sempre un po' per piccoli compartimenti stanze, quell'interesse, bene, saniamo quell'interesse o cerchiamo di avere quel vantaggio, no? Poi dopo, rileggendoli alla fine, si vede che c'è una, sono gli attori economici, esatto, che costruiscono il sistema alla fine utilizzandolo, no? Esatto. Quindi non c'è... esatto. E quindi posso aggiungere una cosa che è quasi più una, ormai quasi una leggenda, c'è un progetto che risale alla fine del 1800 del secolo scorso, che prevede il collegamento con un'idrovia da Milano a Venezia navigabile. È ancora un progetto in piedi, si realizza anno dopo anno, decennio dopo decennio, e uno dei problemi gravi è proprio l'intersecazione con l'Adige e col Penta, che naturalmente dove questo canale navigabile unire la laguna di Venezia con il milanese, devono attraversare tutti questi affluenti del Po, e ancora ci sono dei tratti già costruiti, sì, però la realizzazione proprio dell'utilizzazione ancora. Allora, se mi consente di fare uno spot pubblicitario, ne approfitto. Il prossimo numero della rivista Storia e Regione, che è uscito in Treghion, ospiterà, sarà un numero dedicato ai transiti, e ospiterà tra l'altro un contributo proprio sull'idrovia padana, dove due colleghi di Brescia hanno ricostruito tutta la storia della vicenda dell'idrovia padana. Quindi se vuole acquistare la rivista. A proposito, visto che mi sembra che stiamo chiudendo, grazie Andrea per aver dato uno spunto, io ho portato, cioè, grazie all'Accademia degli Agiati, noi abbiamo una convenzione con l'editore e per statuto abbiamo deciso di non vendere l'operato del nostro lavoro, perché comunque è volontariato culturale, l'Accademia non ha scopo di lucro, vive di sovvenzioni, di rapporti con enti pubblici, per cui io ho portato lì alcune copie del libro che, visto la bella presentazione, la bella riuscita, eccetera, eccetera, volentieri l'Accademia omaggia a chi volesse ovviamente prenderlo, se siete interessati. Ovviamente.